esperimento umano, ma non mi toccherà nessuno. Uomo senza amore, solitario, in un cerchio, nessuno stringe la mia mano. Uomo senza cuore, millenario, tutti intorno ora rideranno. È tutto il giorno che cammino tra le tue mobili nel centro. Prova a dimenticare in vano, con i sorrisi da bambino, che dentro me c'è anche un uomo. In un film muto, il tuo strano saluto, accudisci la notte in